24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. La crisi greca spaventa l'Europa, le borse chiudono in negativo, in fumo in un giorno 188 miliardi di euro. L'Unione chiede alla Spagna più impegno nel ridurre il deficit. I marò italiani, terzi protesta con l'ambasciatore indiano, a Bruxelles si mobilitano gli eurodeputati italiani. I laureati italiani fanno sempre più fatica a trovare lavoro. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova puntata di 24 ore in Europa. La crisi della Grecia spaventa l'Europa, infatti tutte le borse chiudono in negativo. Milano perde il 3,39%, Francoforte il 3,4%, Parigi il 3,58%, Londra l'1,86%. In tutto sono svaniti 188 miliardi di euro di capitalizzazione. Le banche tornano nella bufera in borsa a causa delle tensioni sul via libera dei creditori privati alla ristrutturazione del debito greco. L'avvicinarsi della scadenza dell'8 marzo, data chiave per l'ok al riassetto del debito di Atene, ha acceso le preoccupazioni sui listini europei, penalizzando fortemente i titoli degli istituti di credito. A Milano meno 6,5% per Monte dei Paschi, meno 6,2% per la Popolare dell'Emilia Romagna e perdite superiori al 5% per BPM, UBI, Mediobanca e Unicredit. Sembra invece spegnersi l'appeal speculativo su Fondiaria Assai e su Premafin, primo azionista del gruppo assicurativo. Con il primo ok delle banche creditrici al piano di ristrutturazione del debito Premafin, il mercato sembra non credere a un rilancio della cordata Sator Palladio e ha venduto a piene mani i titoli durante la giornata di borsa. Fondiaria Assai ha perso il 9,7%, Premafin il 9,4%. Da Radio Core, Andrea Fontana per Radio 24, il Sole 24 Ore. E l'Europa è già in recessione moderata, conferma Bruxelles, dopo l'uscita degli ultimi dati sulla crescita del PIL continentale. Boom nella cassa integrazione in Italia. Crescita dell'Eurozona giù, secondo Eurostat, che ha rivisto a ribasso l'incremento del PIL nel 2011 più 1,4%. Il quarto trimestre dello scorso anno si è chiuso con un calo di 3 decimali rispetto al trimestre precedente. Male l'Italia, dove il calo è stato pari allo 0,7% nell'ultimo trimestre, un ulteriore peggioramento rispetto al calo dello 0,2% del terzo trimestre. Il confronto Europa-Italia peggiora su base annuale. In questo caso il PIL dell'Eurozona ha fatto registrare lo 0,7% in più tra ottobre e dicembre rispetto al 2010, mentre quello italiano è sceso di mezzo punto. I dati negativi di Eurostat hanno condizionato le borse europee, cui non hanno giovato neppure le notizie dalla Grecia, con l'alta tensione in vista della scadenza di giovedì, quando i creditori privati di Atene dovranno pronunciarsi sul piano di swap bond da 200 miliardi. Ad aggiungere nervosismo l'annuncio della Federazione Internazionale delle Banche, secondo la quale un default incontrollato di Atene può costare all'economia internazionale oltre 1.000 miliardi di euro. Ben 350 miliardi sarebbero necessari a proteggere Italia e Spagna dal contagio. Proprio l'Italia ha ricevuto ulteriori notizie negative dalla CIG, è infatti tornata a correre la cassa integrazione. A febbraio, secondo l'Inps, le nostre aziende hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di CIG, con un incremento addirittura del 49,1% rispetto a gennaio. Vola anche la cassa in deroga, più 134% su gennaio. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ma anche la Spagna deve fare i conti con la crisi. Secondo il vicepresidente della Commissione Europea, Olli Rehn, responsabile di affari economici ed euro, il paese iberico deve approntare una strategia di bilancio con misure tali da garantire la riduzione del deficit al 3% del PIL sul 2012. Questo dopo che nei giorni scorsi Madrid ha annunciato che sforerà l'obiettivo di riduzione del deficit PIL su quest'anno. Invece del 4,4 si attesterà al 5,8%. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha affermato che tutto questo non comprometterà l'impegno a tagliare il deficit al 3% del PIL sul 2013. Passiamo ora alla vicenda dei marò in India. Ci trattano bene, abbiamo fiducia nel lavoro positivo che stanno facendo per noi le istituzioni. Sono le parole di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone durante un incontro con i giornalisti italiani nel carcere di Trivandrum. Invece il ministro degli esteri, Giulio Terzi, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore indiano Debravata Saha. L'Italia non riconosce la legittimità per carenza di giurisdizione del procedimento giudiziario in corso, ha detto Terzi a diplomatico indiano. E sulla vicenda ieri a Bruxelles si sono mobilitati gli eurodeputati italiani. Il caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vede un assordante silenzio del servizio diplomatico europeo e in particolare della ministra degli esteri dell'Unione, Catherine Ashton. Lo sostengono il presidente del gruppo PDL, Mario Mauro, la vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli e Carlo Fidanza, Davide Sassoli del PD, il leghista Mario Borghezio e Cristiana Muscardini di Futuro e Libertà. Sentiamo Carlo Fidanza. Noi riteniamo che l'Unione Europea e segnatamente l'alto rappresentante per la politica estera, baronessa Ashton, debbano prendere una posizione più netta a fianco della diplomazia italiana per sostenere

in Germania si spende il doppio, perfino in Spagna, che pure è in situazioni difficili, si spende il 55-60% in più. E noi è chiaro che dobbiamo fare un'inversione di quelle tendenze. Ed è tutto per questa puntata di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Panceri. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.